Avventurieri, poco distante trovate una radura perfetta per accamparsi. Prima però dovrete accendere un fuoco. Druido e cavaliere, le vostre forze combinate vi permettono di trasportare 16 kg di legna per ogni viaggio. Considerando che un quarto della legna che raccoglierete sarà troppo bagnata per bruciare, quanti viaggi dovrete fare per raccogliere almeno 50 kg di legna asciutta?